Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda la parte forse più rilevante, anche se a cavallo tra politica ed economia, mi riferisco alla commissione parlamentare. Dopo una lunga serie di rinvii, il Parlamento si appresta a dar vita infatti alla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, di cui faranno parte 20 senatori e 20 deputati. Al di là del fatto di chi sarà favorito per la presidenza, si fa il nome di Pier Ferdinando Casini, ma anche dell'ex sottosegretario Zanetti, il punto è che si è arrivati a questa commissione con anche una forte polemica politica. Al di là della polemica politica, nella seconda ora del programma cercheremo di capire quale dovrebbe essere l'obiettivo di questa commissione bancaria, perché gli scambi più duri, è inutile girarci attorno, si concentreranno sui casi Monte dei Paschi e Banca Etruria, ma anche le banche venete, e a nessuno sfugge che tutto questo, visto che si va verso la campagna elettorale, diventerà anche materia, o potrà diventare anche materia di carattere elettorale, quindi di scontro politico su un tema delicatissimo come quello di che cosa è successo ad alcuni istituti. Abbiamo detto più volte che il governo, a nostro avviso, nonostante fosse un'estrema razio e i soldi fossero nostri, bene ha fatto a dare i soldi con il decreto per il salvataggio delle banche. Il rischio sostanzialmente di un effetto sistemico infatti era altissimo, oltre che i prestiti dei piccoli imprenditori e non solo nei ottenuti da queste banche. Però un conto è mettere una pezza di emergenza e fare in modo che il sistema nel suo complesso esca da una situazione di stallo totale, mi riferisco alle sofferenze bancarie di queste banche, ma non solo. Altra cosa è dire che a questo punto, una volta che abbiamo ripianato, abbiamo trovato la soluzione per queste banche, passata la festa, gabbato lo santo. No, ci sono responsabilità in primis degli ex amministratori di queste banche e dei consigli di amministrazione, ma anche sarà utile capire cosa non ha funzionato negli organismi di vigilanza, se hanno vigilato bene come sostengono oppure no, capire che cosa si potrebbe fare per avere una vigilanza più forte e perché queste cose non si ripetano. Il rischio che vedo è invece che la commissione diventi solo terreno di scontro politico, cioè accuse contro accuse, ma non si arrivi a un rapporto che poi porti a anche a una nuova legge eventualmente, o dei provvedimenti di carattere legislativo in ogni caso. Vedo già molti messaggi scettici, ma vi arriveremo. In apertura oggi, come sempre, la poco invidiabile classifica di Focus Economia con gli sprechi della pubblica amministrazione e poi la startup. Visto che parleremo sempre e come sempre anche di borsa, do subito l'aggiornamento per quello che riguarda la seduta, ultima seduta della settimana. Si va a correggere leggermente, ma la borsa, l'abbiamo raccontato molte volte, le borse europee e anche quelle statunitensi sono ai massimi da 22 mesi, ma soprattutto con rialzi significativi da inizio anno: meno 0,25% Milano, meno 0,33% Parigi, meno 0,20% Francoforte, Londra meno 1%, Dow Jones più 0,20%. L'euro è tornato sopra quota 1,19 e anche vicino a quota 1,20, 1,19,66. Tra i titoli, Leonardo più 1,22, Snam più 0,80 come Moncler e Azimut. Lo 0,60 lo guadagna Eni e Telecom Italia, lo 0,50 Ferrari. Eterna, chi perde oggi? Soprattutto Salvatore Ferragamo, meno 3,30, e Yoox Net-a-Porter meno 2,30, Biper Banca meno 1,70, Unipol meno 1,40, Generali meno 1 come A2A e Mediobanca. Qualcuno mi sta già scrivendo sulla commissione parlamentare. Guardate che la commissione non ha, lo dico per precisione, non ha l'obiettivo di far pagare, c'è la giustizia e le indagini sono della magistratura in tutte le vicende che ho nominato, Monte dei Paschi, Etruria, Marche, Ferrara, Chieti e anche Vicenza, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Spero, c'è poi la Cassa di Risparmio di Genova che pure... spero di non averne dimenticata qualcuna, ormai la lista è molto, molto lunga, ma non ha l'obiettivo di andare a condannare, deve investigare come nel passato altre commissioni parlamentari e dare poi un rapporto di carattere anche politico, oltre che parlamentare, su che cosa non ha funzionato. Mi sembra una commissione dovuta, perché se no il rischio era appunto di mettere i soldi e poi... ognuno per sé e Dio per tutti. Per quello che riguarda le altre notizie in breve, le leggiamo subito. Ricordo che il numero per intervenire con SMS e WhatsApp è 349-238-6666. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta del programma su Facebook. E allora partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Oggi il rapporto FAO, presente anche nei nostri GR24, la fame nel mondo torna a crescere dopo aver segnato un costante declino da oltre 10 anni. Nel 2016 ha colpito infatti 815 milioni di persone, ossia l'11% della popolazione globale. Questo è presente nel rapporto dell'Agenzia dell'ONU, FAO, IFAD e WFP. Il rapporto si chiama The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 e, secondo il rapporto, i 38 milioni di affamati in più per un totale di 815 milioni di persone sono dovuti soprattutto alla proliferazione di conflitti violenti e agli shock climatici. Sempre sul fronte internazionale torniamo sul Bitcoin, che voglio dire è stato oggetto di un nostro approfondimento mercoledì. È sceso anche sotto i $3,000, ricordo che era arrivato fino a $4,300. Che cosa è successo? È successo che quella che viene chiamata la valuta virtuale, la criptovaluta, in realtà usata principalmente come forma di investimento e speculazione, ha iniziato a scendere da quando la Cina ha dato un giro di vite all'utilizzo di Bitcoin, oltre poi alle posizioni di JP Morgan, Diamond e di Allianz. Oggi anche via BTC China, uno degli operatori sul mercato del Bitcoin in Cina, ha annunciato che bloccherà le attività di trading il prossimo 30 settembre. Non è una cosa da poco, perché come abbiamo spiegato il 70% circa degli scambi sui Bitcoin ha proprio come oggetto la Cina, cioè si realizza in Cina. E devo dire che altre due piattaforme di scambio cinesi, OKCoin e Huobi, hanno annunciato che fermeranno le contrattazioni in valuta digitale entro il prossimo 31 dicembre. Stati Uniti, cala la produzione industriale ad agosto, il calo maggiore degli ultimi 8 anni, ma non è inspiegabile perché si chiama soprattutto effetto uragano Harvey. Lo ha comunicato la stessa banca centrale americana, la Federal Reserve. Il dato è inferiore nettamente alle attese degli analisti, che scommettevano un rialzo della produzione industriale dello 0,3%, ma sappiamo i danni che Harvey ha fatto soprattutto in un paese, in uno stato come il Texas. Oggi segnalo una posizione del ministro alle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, considerato da sempre, perché lo è, un falco, molto morbida anche nei confronti della Banca Centrale Europea. Perché ha detto Schäuble, attenzione, l'uscita dalla politica espansiva, cioè tassi a zero, acquisto di titoli di Stato attraverso il quantitative easing, dovrà essere cauta affinché i mercati non reagiscano in modo troppo nervoso. E poi ha dato anche, a mio avviso, un assist, un appoggio, chiamiamolo così, a Mario Draghi, perché ha detto Schäuble, la politica monetaria straordinaria della Banca Centrale Europea con tassi bassi e acquisti di titoli di Stato è stata necessaria per superare una fase di crisi economica. Insomma, viste le bordate che erano arrivate dalla Germania a Draghi, non è un appoggio da poco, eh? Sul superministro c'è un vertice Ecofin e poi Eurogruppo a Tallinn, si è discusso qualche dichiarazione sul superministro europeo alle finanze e all'economia dopo le dichiarazioni di Juncker tre giorni fa. Devo dire che anche il ministro Padoan è d'accordo, darebbe un'accelerazione efficace. Bene, ha detto Padoan, le idee di Juncker è questo il momento per rafforzare le istituzioni europee. E poi Moscovici, che viene da molti visto come il candidato potenziale a questo ruolo di superministro economico e finanziario, Moscovici è attualmente il commissario degli affari economici dell'Europa, ha detto non è una questione personale, ma questa è bella perché ha detto non è una questione personale, ma per il posto di superministro dell'economia dell'Unione Europea ho caratteristiche che pochi hanno. Faceva prima dire mi candido, penso di essere l'uomo giusto, però vabbè, non mi sembra una cosa a brevissimo. Veniamo all'Italia, si terrà con ogni probabilità il 22 settembre il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il DEF, che poi dovrà arrivare alla Camera il 4 ottobre e lì si capirà quella che è l'impostazione della legge di stabilità o legge finanziaria, come si diceva una volta. Per quello che riguarda il Consiglio dei Ministri, ha approvato oggi in via preliminare il decreto legislativo che fissa un limite alle commissioni interbancarie per i pagamenti con carta e bancomat tramite il POS. Il governo in sostanza con questo decreto recepisce la direttiva dell'Unione Europea sui servizi di pagamento nel mercato interno e adegua la normativa italiana anche a quella europea sulle commissioni interbancarie. Sappiamo che molti esercenti lamentano il fatto che le commissioni interbancarie sull'utilizzo di bancomat e soprattutto carte di credito siano troppo alte, scoraggino e siano svantaggiose per loro stessi. Siccome la Commissione Europea punta molto sulla sostituzione più possibile del contante con la moneta elettronica, anche per motivi di tracciabilità e di evasione fiscale, è chiaro che bisogna anche in qualche modo andare oltre e superare il problema lamentato, devo dire, non solo in Italia, di commissioni eccessivamente alte per l'esercente. Ancora, vedo molti messaggi per la pensione dei neoeletti, dei 600 neoeletti, perché è scattata per 608 parlamentari dopo 4 anni e un giorno di lavoro il diritto a una rendita di 1000 euro al mese a partire dai 65 anni di età. Allora, per carità, uno può obiettare che è molto alto la pensione, che è comunque cumulabile con altre rente previdenziali dovute ad altri lavori. La soglia si abbasserà per le prossime legislature ai 60 anni, adesso è dai 65 anni e vige il metodo contributivo. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto formalmente ai presidenti di Camera e Senato di poter rinunciare come parlamentari del Movimento alla pensione privilegiata dei parlamentari. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha detto che approfondiranno la loro richiesta. Non chiedono la cancellazione dei loro vitalizi ma l'applicazione dei loro vitalizi. Ora, la cifra è alta, sicuramente però è meglio di quanto non capitasse prima, dove tu avevi dei vitalizi molto più alti, non con metodo contributivo e di cui godevi subito. Poi uno può ragionare, ma non mi sembra questo nella puntata, nella giornata, se il parlamentare nell'esercizio della sua funzione debba maturare attraverso appunto i contributi la pensione. Devo dire che i 65 anni di età equiparano comunque il godimento di questa pensione a quella degli italiani. Faccio notare due cose. Allora, sui vitalizi abbiamo fatto intere classifiche, perché poi abbiamo soprattutto quelli anche di carattere regionale, delle schifezze vere e proprie, vengono tramandati alla vedova, alla figlia quando scompare, cioè, delle cose per gente che è stata due mandati alla regione nel parlamentino regionale. Bisogna anche stare attenti a non andare all'eccesso opposto, a mio avviso, e cioè dire che il lavoro del parlamentare lo devi fare praticamente gratis, perché ricordo che il principio della Costituzione, poi abusato dalla classe politica, però era corretto a mio avviso, cioè non può essere un problema di censo fare politica, e quindi io devo darti delle garanzie per cui il tuo impegno politico non ti porti ad avere un danno economico importante, un danno di carriera, altrimenti la politica la fanno solo i proprietari terrieri, i ricchi, i tenutari o chi riesce ad andare in aspettativa. Per cui attenzione a un eccesso a mio avviso di demagogia nel dire la politica si fa per passione, si fa a zero. Eh no, allora torniamo alla politica per censo, perché detto questo continueremo a avere la classifica degli sprechi, e detto questo il vitalizio di prima era inaccettabile. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Facciamo una bella cosa, siccome la classifica oggi è particolarmente intensa, andiamo sul meteo, la pubblicità e poi la classifica della settimana. 349 dicevo 238-6666 per sms e whatsapp. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. La classifica della settimana. 17:31 minuti, andiamo sulla classifica. Una precisazione ad alcuni ascoltatori che mi dicono: ma lei ha sempre detto che non è un lavoro quello del parlamentare. Attenzione, non è un lavoro, e quindi i vitalizi di prima erano ingiustificati. Una norma che è alto, secondo me, il livello della pensione, che porta a 65 anni la riscossione dei contributi versati durante l'attività da parlamentare, è già una cosa molto diversa. Ma uno può anche dire, e lo ritengo, che non sia un lavoro, quindi non può essere visto come un investimento, diciamo, di carriera ed economico fare parlamentare, ci deve essere uno spirito civico e di cittadinanza. Attenzione a non andare all'estremo opposto, che il parlamentare lo può fare solo chi non deve preoccuparsi dell'aspetto economico. Questo stavo dicendo, perché è previsto dalla Costituzione stessa, e anche la ricattabilità, ecco perché non c'è, c'è la libertà nell'esercizio del mandato. Per cui invito solo a fare una riflessione, perché abbiamo fatto battaglie lunghissime, abbiamo raccontato anche per le regioni i vitalizi tuttora in essere di parlamentari che fecero poche legislature regionali dopo la guerra e ancora hanno i benefici. Quello era un assurdo, era anche uno schifo, e dava la percezione netta di una classe politica che si autoproteggeva e si autosalvava in qualche modo, e quindi da lì il rischio di essere vista come una casta. Andiamo con le notizie in breve, o meglio le notizie in breve no, ma la classifica del programma. Partiamo dal quinto posto. Allora, visitava bambini contemporaneamente in due centri a distanza di 100 km l'uno dall'altro, e questa è una delle tante irregolarità. La truffa vale 190.000 euro e quindi l'abbiamo messa al quinto posto, però è singolare perché stiamo parlando di una pediatra di 59 anni che ha percepito fino a 190.000 euro per visite mai svolte. Specializzata in pediatria, non si è mai presentata in servizio, continuando a percepire lo stipendio mensile, comprensivo anche dei cospicui rimborsi chilometrici, pari a oltre soli rimborsi 30.000 euro. l'anno. Ora il GIP, il Tribunale di Patti, ha sospeso dalla ASP di Messina il medico. Il procedimento penale per truffa ai danni del servizio sanitario instaurato per condotte di assenteismo. E le Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza ha contestualmente proceduto anche al sequestro preventivo diretto di 3 beni immobili e di un veicolo di grossa cilindrata per un importo di 190.000 euro, sia pari al danno cagionato. Così almeno chi ascolta e avesse intenzione di comportarsi nello stesso modo sa che cosa succede. Devo dire che non certo per merito della nostra classifica, non voglio prendermi nessun merito, ma mi sembra che rispetto a qualche anno fa poi le sanzioni, punizioni, sequestri siano un pochino più stringenti in questi casi. Avrebbe dovuto comunque fare delle visite ambulatoriali in 5 poli ambulatori del Messinese, a Sant'Agata di Militello, Capo d'Orlando, Santo Stefano di Camastra, Mistretta e Tortorici. Non poteva andare perché doveva invece fare prevenzione nelle scuole. Questa è la giustificazione ufficiale. Peccato. Uno può anche dire non ce la faccio a svolgere il mio lavoro, però mi deve spiegare la dottoressa come fa a certificare, se non ci poteva andare, 1300 visite svolte su altrettanti bambini, visite mai avvenute. Quindi apriamo una nuova categoria dello spirito, dopo la casa che ti viene comprata a tua insaputa e dopo il teletrasporto di alcuni assessori che ricordo molto bene, apriamo la categoria dello spirito, la visita pediatrica a insaputa del bambino, che immagino sia il sogno di ogni bambino. Tu l'hai fatta e non te ne sei accorto, la visita pediatrica peak indolor, cioè non te ne accorgi, ma lei lo certifica, 1300 ne ha fatte. Tra l'altro rido, ma insomma, i finanzieri hanno scoperto, si sono finti genitori di pazienti, scoprendo che nell'ambulatorio la pediatra non era nemmeno conosciuta dal personale. Mi scusi, c'è la pediatra X? No, ma chi l'ha mai vista? Ma non esiste, non lavora qui. Beh, lì. E per 3 anni, pur risultando sulla carta presente, non si è mai fatta vedere, appunto, non ne conoscevo neanche le sembianze, il nome, la fisionomica. Quindi, insomma, però, bambini di tutto il mondo, auguratevi di avere, lo dico per ridere, la visita pediatrica a vostra insaputa e anche dei genitori e di tutti, insomma, e anche dello Stato e della ASL. Andiamo al quarto posto. Qualcuno vuole che metta la Lega? No, guardate, la Lega intesa come il sequestro, ne parleremo dopo, ma non c'entra con gli sprechi. Quella, c'è una condanna, un sequestro, poi uno può vederla come vuole, ma non è uno spreco. Ci sono la condanna, l'inchiesta della magistratura, ne abbiamo parlato a suo tempo e via così. Però andiamo al quarto posto e qui scopriamo un nuovo modo di concepire, io devo purtroppo mettere la regione di Sicilia, in questo caso è Palermo, anche questa settimana, un nuovo modo di intendere il lavoro. Ci sono lavori remunerati, penso per esempio ai parlamentari, come si chiamano, perché è il Parlamento della regione siciliana, agli assessori comunali, agli assessori regionali, alla battaglia durissima che fu fatta lì sì per difendere i vitalizi vecchio stampo, e quelli sono lavori nobili. Poi ci sono lavori talmente poco nobili che non meritano neanche di essere pagati. Faccio un esempio, l'assistente sociale. Beh, noto che un assessore o un deputato del parlamentino siciliano fa un lavoro più alto rispetto all'assistente sociale. Allora, a Piana degli Albanesi, 6.000 abitanti vicino a Palermo, è in corso una selezione per un professionista da impiegare a titolo volontario. Non è un caso unico, nel senso che tu chiedi un assistente sociale perché ne hai bisogno, evidentemente per alcuni bambini, ragazzi che devono essere seguiti, ma chiedi che venga a lavorare gratis. Allora, io vorrei dire al sindaco di Piana degli Albanesi che c'è una vecchia regola in economia che dice: in economia non esistono pasti gratis, quindi gratis non si fa niente, si fa il volontariato. Allora fai un bel bando per il volontariato. Professionista da impiegare a titolo volontario, tra l'altro non è la prima volta, tanto che è intervenuto il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Bando scaduto lo scorso 4 settembre, il Comune ha competenze in materia socio-assistenziale e deve reclutare una persona con titoli adeguati. Nessuno dei dipendenti ha questi titoli. L'assistente sociale necessita anche di un diploma, non è che... Ma vabbè, ma anche se avessi chiesto il responsabile, diciamo, alle pulizie del Comune, non esiste che tu faccia un bando gratis. Tra l'altro, in un comune che non è che sia proprio il comune di Arpagone, il Lavaro di Molière, Nel senso che il piano degli albanesi non ha rispettato l'equilibrio di bilancio per il 2016, quindi ha sforato il deficit, vorrei capire come, non certo pagando gratis gli assistenti sociali, e quindi è stato sanzionato. Ecco perché si riduce a zero la possibilità di manovra e quindi l'offerta gratis. Il problema è che, come sempre, poi tutto questo si scarica sulle parti deboli. Cioè io vorrei capire come hai fatto a sforare il budget. Vediamo quali sagre, quali iniziative, cosa hai combinato in questi anni. Poi se sfori il budget e vieni a questo punto sanzionato, cosa blocchi? Blocchi l'assistente sociale, ma è giusto. Allora, i cittadini di Piana degli Albanesi, è inutile che se la prendano con lo Stato italiano, se la devono prendere con il loro comune, chiedere notizie al loro sindaco, così la cittadinanza si esercita. Perché hai sforato il tetto di budget? Come hai fatto? Hai costruito un asilo? Hai messo a posto un parco giochi? Magari sì. Oppure hai fatto altre operazioni di carattere socialmente molto meno utili, che ti portano poi a scaricare tutto sull'assistente sociale? Allora, tra l'altro nessuno sta dando una risposta, né il sindaco né l'assessore ai servizi sociali di Piana degli Albanesi. Noi li invitiamo, magari sono in ascolto, a intervenire quando e come vogliono. Oh, e restiamo nella regione, anzi no, ho sbagliato perché ho anticipato un secondo posto. No, andiamo in Puglia, oggi però la classifica non la vincono regioni più abituate. Comunque andiamo in Puglia, a Bari, perché massimo rispetto per la magistratura, l'abbiamo sempre detto e quant'altro, però prima o poi in questo paese bisognerà anche ragionare in maniera laica, e quindi non da destra, non da sinistra, non attaccando la magistratura o difendendola sempre comunque, sull'efficienza delle procure, e trovare un metodo di valutazione se una procura viene gestita a partire dal procuratore capo in maniera efficiente, come molte sono, o in maniera non efficiente, e quindi andare a vedere come si fa a misurare l'efficienza di una procura. Ma perché lo dico? Io non so quali siano i motivi, ma ci sono voluti più di 2 anni per notificare un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 9 indagati, tutti ex dirigenti della ASL di Bari. Ne parlammo anche noi, tra cui l'ex direttrice generale Lea Cosentino, accusati di abuso di ufficio per fatti relativi agli anni 2008-2011. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal PM Gaetano De Bari, viene avviata nel 2013, accerta presunti abusi compiuti per anni da direttori generali sanitari e amministrativi che si sono avvicendati nella ASL di Bari, e tra l'altro fino al 2011, senza aspettare una gara come invece previsto dal codice degli appalti e codice dei contratti, hanno indebitamente concesso proroghe dal servizio di trasporto pazienti scaduto nel maggio 2008. Comunque vengono indagati tutto un insieme di amministratori della ASL, ad alcuni di loro l'avviso di chiusura di indagini datato luglio 2015 è stato notificato da anni fa, ma soprattutto ad altri soltanto oggi, cioè a quasi 10 anni dai fatti. Che cosa succede? Cade in prescrizione. Ora io capisco tutto, ma per una roba del genere forse una riflessione su com'è organizzato il lavoro della procura, se arrivi dopo 2 anni e a 10 anni dai fatti a notificare un avviso di conclusione delle indagini, che tra l'altro notifichi nel 2015, luglio 2015, e viene notificato ad alcuni degli indagati adesso, ma voglio dire, tutto normale? 2 anni più altri 3 anni per da quando chiude le indagini per notificarlo? Boh. Tra l'altro c'è un'altra prescrizione che agita Bari, perché sta dimezzando il processo sui parcheggi DEC. Cadono le accuse ai De Gennaro. Allora, che cosa capitò? Il processo riguarda presunti appalti truccati del comune di Bari per la realizzazione di 2 parcheggi interrati in piazza Cesare Battisti e piazza Giulio Cesare, e per il progetto del centro direzionale del quartiere San Paolo. L'inchiesta viene aperta nel 2007 dopo la denuncia di alcuni cittadini che notano acqua nel cantiere del parcheggio interrato in piazza Cesare Battisti. A quel punto vengono evidenziate delle irregolarità nelle procedure per le 3 grandi opere. La Guardia di Finanza accusa, sostiene che c'è un giro di tangenti che ha caratterizzato tutto il rilascio delle autorizzazioni. Una pressione illecita, scrivono le Fiamme Gialle, che avrebbe condizionato le gare d'appalto del comune di Bari. Per queste accuse resiste alla prescrizione l'ultimo tassello, l'associazione per delinquere, ma tutti gli altri per prescrizione sono caduti. Questa inchiesta portò all'arresto ai domiciliari dell'ex consigliere regionale PD Gerardo De Gennaro, costò a Michele Emiliano, qualcuno lo ricorderà al tempo sindaco di Bari, anche così il celebre episodio delle cozze pelose, qualcuno forse lo ricorderà, anche la sua assessora comunale Annabella De Gennaro, in giunta figlia della famiglia di costruttori, fu invitata a presentare dimissioni in maniera poco spontanea, e insomma decade tutto per prescrizione. La GUP del Tribunale Barese Alessandra Susca ha dichiarato la prescrizione per 5 reati di corruzione e frode in pubbliche forniture nei confronti degli imputati, tra i quali i costruttori baresi Daniele, Giulio, Gerardo e Vito Michele Giacomo De Gennaro, all'epoca amministratore della DEC SPA, che sono a giudizio con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Bari. Nei confronti di alcuni imputati, tecnici e funzionari del Comune della Regione, il giudice ha disposto anche il dissequestro dei beni. Ora, ma magari erano veramente innocenti. Non sto dicendo che siccome c'erano le indagini andassero condannati, però l'innocenza viene stabilita dal tribunale. Non puoi andare in prescrizione, che è una resa dello Stato ed è una resa della giustizia sulla capacità di essere efficiente, di portare a compimento le inchieste. Ma magari scoprivi che le inchieste decadevano, magari decadrà anche l'ultima che è rimasta, associazione per delinquere, e saranno tutti innocenti. Ma te lo deve dire il tribunale, non te lo deve dire la prescrizione, perché tu non sai organizzare l'attività lavorativa del tuo tribunale. Oh, le chicche finali le lasciamo dopo il traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. Vedo molti messaggi sul tema della prescrizione. Per carità, c'è stato un lungo dibattito e c'è tuttora, alla luce delle varie riforme della giustizia, sul tempo della prescrizione. Va bene, uno può anche allungare il tempo della prescrizione, però attenzione, nei casi citati, lungi da me difendere chi era accusato, ma insomma, se il fatto contestato è del 2008 e ti notificano nel 2018 la chiusura delle indagini che è stata fatta nel luglio 2015, non è solo colpa della legge. Forse si può anche introdurre la categoria che ci sono magistrati bravissimi, magistrati eroi, magistrati che da soli lottano per applicare la giustizia in questo paese, e ci può essere anche qualche magistrato meno produttivo. O è una bestemmia toccare questo tema, o uno diventa subito un attacco alla magistratura. Forse ci sono uffici nelle procure che lavorano in maniera meno efficiente rispetto ad altri, e abbiamo raccontato in maniera virtuosa anni fa il caso della procura di Torino e di come diventò un caso di scuola nella capacità che aveva di smaltire le pratiche, gli arretrati. Poi uno ragiona anche sui tempi della prescrizione, ma non solo su quelli. Andiamo al secondo posto. Dunque, noi abbiamo raccontato, parlando di formazione di scuola come e di occupazione, che la Sicilia è la terza regione tra 200 regioni europee come numero più alto di NEET. No, persone che non studiano, non lavorano e non fanno nulla, giovani chiaramente tra i 18 e i 24 anni. E abbiamo raccontato che peggio della Sicilia ci sia solo la Guyana francese, 44,7%, peccato che sia francese per modo di dire, è in Sud America o centro Sud America, e la regione bulgara del Severo-Zapaden, che qualcuno mi ha scritto vuol dire nord occidentale, una cosa del genere, non conosco il bulgaro, che ha il 46,5%. Dato è Eurostat, Ora la Sicilia è al terzo posto. Perché lo dico? Non per tornare sulla notizia, noi siamo anche il paese che ha il maggior numero di NEET, perché nonostante tu abbia una percentuale di ragazzi che non lavorano e non studiano dei 40 dove cavolo è 41,4%, cioè solo la Guyana francese e la Bulgaria te battono. Io non ho ancora visto questo tema entrare nella campagna regionale siciliana, lo dico di nuovo, tutti stanno occupando di altro, come come tiri fuori, cioè la formazione, i fondi, come li usiamo meglio, come ne usiamo a pioggia, come ne usiamo per fare clientela pura. Ma ho visto un'altra cosa, che visto che le elezioni sono praticamente, siamo quasi a ridosso, le elezioni siciliane, sta nascendo un grande comitato elettorale in vista del voto di novembre. Allora, il governatore Rosario Crocetta e la sua giunta hanno già annunciato l'arrivo di un aumento di 80 euro al mese per i 22.000 forestali dell'intera isola, che non sono i forestali nazionali, sono quelli regionali. Già faccio notare due cose: che a 22.000 forestali in Sicilia sono pari a tutto il numero dei forestali nel resto d'Italia; b, sono il doppio del Canada, che qualche alberello ce l'ha, e uno mi ha scritto giustamente una volta il doppio delle famose giacche rosse canadesi, orso yogi incluso, per cui tutto, ma 80 euro in più. E poi un insieme di incarichi e contributi, per carità, quello dell'assessore al turismo Anthony Barbagallo, che su 103 sagre e concertini finanziati da lui direttamente ha pensato di sostenere ben 50 eventi in provincia di Catania. Io non torno più sulle sagre, ho già detto, ce ne sono 40.000 in questo paese, quelle che si autofinanziano e addirittura raccolgono soldi per la collettività, ben vengano. Quelle che sono concorrenza sleale non vengano così bene, ma soprattutto sarei stufo di finanziare Campania, 15 milioni, Sicilia, sono il Comune, si aggira sui 10 milioni di euro, di finanziare qualunque sagra del Cornuto, della Passera, non mi ricordo più tutti i nomi, del Rutto, alcune me le ricordo a memoria, perché il motivo è elettorale. E invece Barbagallo, su 103 sagre e concertini che finanzia direttamente, 50 sono in provincia di Catania. È una coincidenza, ma è il suo collegio elettorale, è una coincidenza. Tant'è che ci sono vari esposti. Forza Italia, che pure ha governato per anni e non mi sembra in maniera eccessa, ha fatto un esposto alla procura per voto di scambio, così come Claudio Fava parla di vacca da mungere riferito alla regione. Comunque i 22.000 operai forestali costano già 250 milioni di euro l'anno e 80 euro in più. Quanto costa l'operazione? Che è la prima domanda che uno si fa. Beh, nel senso, è ancora da quantificare, dicono dall'amministrazione dell'amministrazione siciliana. È un fatto storico, dicono CGL, CISL e UIL siciliane, perché si sbloccano in situazione ferma da 16 anni, riallineando i salari con quelli dei forestali del resto del paese. Ma io dico una cosa, adesso la responsabilità prima della politica siciliana, ma anche i sindacati. Ma uno potrà anche dire, vabbè, ben vengono gli 80 euro, però si riallinea al resto del paese. Riallineate anche il numero al resto del paese, se no torna l'accusa ai sindacati, in questo caso, di, diciamo, non dico connivenza, ma di essere tutto sommato silenti e quindi accondiscendenti. Perché tu non puoi dirmi bene così, equipariamo lo stipendio dei forestali regionali siciliani al resto del paese, quando ti facciamo notare che il numero dei forestali regionali siciliani è uguale a quello di tutto il resto del paese, Alpi, Appennini inclusi, ok? Allora anche CGL, CISL e UIL possono mettersi la mano sulla coscienza e dire che sbagliano, e poi è difficile contestare il fatto che i sindacati si schierino sempre dalla parte anche degli sprechi della pubblica amministrazione. Comunque, decisione storica, gli 80 euro ai forestali a meno di due mesi dalle elezioni regionali, il tutto senza la riforma che avrebbe finalmente dato compiti precisi a 22.000 persone che si occupa di manutenzione dei boschi. Faccio notare che quest'anno, mai come quest'anno, non sarà solo colpa loro, ma la differenza non si è vista, visto quello che è successo in Sicilia con i roghi, e abbiamo beccato in alcuni casi anche gli stessi forestali, ma non voglio andare su questo. Non si bada comunque a spese. Il governatore Crocetta in questi ultimi mesi ha nominato almeno una ventina di esponenti del suo movimento, che si chiama Il Megafono, in enti e SPA regionali, anche istituti autonomi, case popolari dell'isola. Solo gli attivisti del Megafono, lo stesso nei CDA degli aeroporti, così amministrazione degli aeroporti Comiso e Trapani, nella SPA e nelle SPA controllate, che danno lavoro a migliaia di persone, dal 118 che conta in Sicilia 2.300 soccorritori alla società di servizi regionale che eroga quasi 2.000 buste paga. Però vorrei chiudere, prima di arrivare al primo posto, con il mitico assessore al turismo che è importante in Sicilia, il democratico Anthony Barbagallo, ha speso negli ultimi mesi 500.000 euro per finanziare direttamente, senza alcun bando, appunto le manifestazioni che citavo, metà delle quali nel suo collegio elettorale, ma sono manifestazioni importantissime perché resteranno nella storia della Sicilia, di Catania, dell'Italia, dell'Europa e forse anche del nuovo mondo globale. Come perdersi infatti la sagra delle Nespole in un paesino sull'Etna e la festa di Sant'Antonio a Pedara. GR24. Il segnale orario vi è offerto da A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo la poco invidiabile classifica di questa settimana. Alcuni di voi hanno fatto il calcolo di quanto costa dare 80 euro in più al mese ai 22.000 forestali dell'isola, a seconda che ci siano 12 mensilità o 13 mensilità, siamo sui 22-21 milioni di euro. 22 milioni di euro, va bene così, visto che poi mancano i soldi per la formazione, visto che poi i comuni chiedono gli assistenti sociali gratis e fanno i bandi gratis, e evidentemente era prioritario dare 21-22 milioni di euro ai 22.000 forestali dell'isola. Devo dire che hanno scritto anche alcuni sindacalisti, ma figuratevi se io confondo sindacati con sindacati a seconda delle categorie e del ruolo. Però in alcuni casi, lo diciamo per l'ATAC, lo diciamo per i forestali, il fatto che festeggino CGL, CISL e UIL siciliane, immagino nel pubblico impiego, non va bene, non va bene, perché tu puoi dire ok, li abbiamo adeguati a livello nazionale, ma devi anche dire devono essere portati come numero a livello nazionale, e se no non ci siamo. Però non è un attacco ai sindacati in generale, figurati. Andiamo al primo posto e a sorpresa, sorpresa, al primo posto c'è una regione che non spesso occupa la nostra classifica, ma oggi si merita proprio a man bassa il primo posto. And the winner is... la mitica autostrada pedemontana lombarda. Allora, che cos'è? Non c'entra niente con la Brebemi, che comunque ha già dei suoi problemi nello stare dentro, sempre mezza vuota, costi troppo alti, insomma. No, l'autostrada pedemontana lombarda è un progetto voluto, non c'è nessun problema a ricordarlo, dalla Lega Nord in particolare, Umberto Bossi, Roberto Maroni, per collegare, diciamo, la parte pedemontana della Lombardia, quindi da Bergamo verso Varese, senza passare per lo snodo di Milano. Ora, i progetti infrastrutturali vanno sempre bene sulla carta, poi bisogna capire la fattibilità e il ritorno sul progetto stesso. Che cosa è successo? Che la sezione fallimentare deciderà in questi giorni se accogliere la richiesta della procura di dichiarare il fallimento della società Autostrada Pedemontana. È già per completare l'opera, che è una delle opere più controverse e care d'Italia, lo dico, sarebbero necessari oltre 5 miliardi di euro, conti che a detta dei PM Filippini, Pellicano e Polizzi, che hanno aperto un'inchiesta per falso in bilancio, la società non sarebbe in grado di fronteggiare. I bilanci evidenziano uno squilibrio finanziario della società che risulta sovraccaricata del peso dell'indebitamento. Non c'è nessuna regolamentazione su tempi, modalità di finanziamento ed esecuzione dell'opera pubblica. Ora qui bisogna capire se bisogna prolungare l'agonia di questa pedemontana, perché è lunga 87 chilometri, poi ce ne sono altri 70 di viabilità locale. Nasce in teoria con il project financing, quindi contributo maggiore a carico dei privati, che in cambio hanno il diritto all'incasso dei pedaggi per 30 anni. Però dalla spesa iniziale di 4 miliardi si sale a 5 miliardi. Viene così bruciato tutto il finanziamento pubblico da 1 miliardo e 300 milioni per un terzo dei lavori. Non c'è traccia di finanziatori o soggetti disponibili a entrare nel capitale della società che è controllata dalla Regione Lombardia. La Pedemontana S.p.A. si difende dicendo beh, fino adesso nessun creditore ha manifestato criticità. Però dal 2011 si reggono su un prestito ponte delle banche garantito dalla Regione Lombardia. Che cosa è successo? Troppo ottimistiche le stime di traffico, troppo onerosi i primi cantieri, le due tangenziali di Varese Comi, 22 km tra Lomazzo e Cassano Magnago, hanno assorbito tutti i soldi. Manca il cuore del progetto, ossia il collegamento tra gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, che questa insomma poteva essere un'idea interessante, perché sono due aeroporti, uno per il voli low cost, l'altro per i voli long haul, a lunga distanza, ma questo avrebbe consentito di incassare il pedaggio nella tratta più trafficata, probabilmente, cioè da Malpensa a Orio al Serio. I prezzi non hanno aiutato comunque, perché percorrere la A59 tra Villa Guardia e Acquanegra costa 62 centesimi, 1 euro per la tangenziale di Varese, il casello per i camion e autobus di 10 euro per appena 35 km. Sono prezzi di pedaggio superiori del 44% rispetto alle stime iniziali e hanno anche disincentivato il traffico giornaliero. Solo 31.000 veicoli invece dei 62.000 previsti. Poi c'è stata questa beffa del sistema di pagamento Free Flow, più che beffa un boomerang. Niente caselli, bastava il telepass o l'applicazione per saldare il pedaggio. Peccato che il 25% delle auto che sfrecciano non paghi. Addirittura sono 2 milioni gli svizzeri. Ma gli svizzeri? Ma come? Pure gli svizzeri in classifica. Loro che se vai in Svizzera e commetti il minimo reato, eccesso di velocità, ti sequestrano, ti mettono i ceppi all'auto. 2 milioni di svizzeri che non hanno pagato. Ma che? Arrivate nel Bengodi. E comunque, tra l'altro, hanno cercato anche di inviare via posta gli avvisi di pagamento. Questa è bellissima. Siccome ci sono appunto il 25% che non, dei pedaggi che non vengono pagati, inviano via posta gli avvisi di pagamento. Che cosa è successo? Dunque, hanno affidato 20.000 solleciti a una società di spedizioni palermitana e lo scorso gennaio sono stati ritrovati negli acquitrini di tra Albairate e Rosate questi 20.000, questi solleciti, che non, adesso immaginiamo che tutti i 20.000 che ne ha ricevuti siano andati a usare Albairate e Rosate come discarica negli acquitrini, o immaginiamo che qualcuno abbia preso questi 20.000 e li abbia buttati direttamente negli acquitrini. Perfetto. Tra l'altro ci sono anche le proteste dei sindaci che, dopo il danno dei cantieri aperti per anni, si sono ritrovati con la beffa del traffico scaricato sulle strade locali per evitare i pedaggi troppo cari. Va bene, ma mi sembra che tutto questo possa andare, diciamo, nella categoria del comune di Monate sul Serio. Un applauso anche ai vertici della Regione Lombardia, chi ha gestito questo progetto che si sta rivelando un fallimento totale da qualunque punto di vista. Tu lo vada a prendere 5 miliardi a questo punto dai 4 miliardi senza capire come si ritorna sull'investimento e senza vedere lo straccio di un privato che vuole investire. Sì, non c'è solo il paese di Monate sul Serio, ma c'è anche Vergate sul Membro, mi scrive giustamente un ascoltatore, ma stiamo tranquilli. Astia mia. Vabbè, tra Vergate sul Membro e Monate sul Serio, ecco, ma questo progetto si colloca tra questi due paesi. Pierluigi Paracchi, fondatore e mister legato di Genenta, buonasera. Sì, buonasera. Allora, facciamo una cosa, siccome ci tengo molto alla parte delle start-up, adesso ho un appuntamento e siamo andati un po' lunghi sulla classifica, oggi praticamente difficile, mi dice solo cosa fa Genenta, io le do appuntamento lunedì prossimo e mi racconta bene chi vi ha finanziato e quanto state fatturando e che prospettive avete. Va bene, noi ci occupiamo di biotecnologia, abbiamo una terapia genica per la lotta, per sconfiggere i tumori. Oh, e questo già mi interessa particolarmente. Quando siete nati? Siamo nati a luglio del 2014. Da che cosa, come idea? Noi siamo uno spin-off dell'ospedale San Raffaele, nasciamo dall'attività di ricerca del professor Luigi Naldini, che è il direttore del Teleton Institute for Gene Therapy, che ha proprio sede lì all'ospedale San Raffaele, quindi lasciamo dopo 20 anni di attività di ricerca, che il professor Naldini e il suo team ha portato avanti prima su malattie rare, e ora applichiamo le scoperte, i brevetti, la scienza che si è sviluppata sulle malattie rare invece per andare a cercare una terapia contro il tumore. Oh, bellissimo progetto, mi fa anche respirare. Le chiedo solo la pazienza di aspettare lunedì e ce lo racconterà nel dettaglio. Purtroppo delle volte succede avere una classifica più lunga del previsto. Grazie ancora e appuntamento lunedì a Pierluigi Paracchi, fondatore e amministratore delegato di Genenta. Andiamo sul traffico e poi parliamo della commissione parlamentare bicamerale sulle banche, su quello che è successo ad alcune banche negli ultimi anni. 349-238-6666 per sms WhatsApp. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta Focus Economia. Minuti, mi scrivono alcuni utilizzatori dell'autostrada Pedemontana Lombarda. Io non metto in discussione che sia un'ottima autostrada, è vero, l'ultimo presidente fu gratis, Antonio Di Pietro, e qualcun altro mi scrive: guardi che va finita la 59, 6 anni che viaggio in coda. Ho capito, però dobbiamo anche vedere la fattibilità di un progetto sulla base della sostenibilità economica, sennò anch'io avrei voglia di una sopraelevata da qua a casa mia, cioè a Milano, nel senso, però bisogna capire se regge o non regge il conto economico, anzi, visto che ci sono la seggiovia. Professor Luiz Zingales, che insegna all'Università di Chicago, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Lei ha scritto proprio su Sole 24 Ore in merito alla commissione parlamentare che, dopo una lunga serie di rinvii, il Parlamento si appresta a varare, commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, 20 senatori e 20 deputati. Lei ha scritto, eravamo, se non ricordo male, una settimana fa, vado a memoria, banche, quella commissione che non sa da fare. Adesso mi sembra che la stiano facendo. Il tempo a disposizione è di circa 2 mesi, poi finirà la legislatura, e già questo non depone a favore, conoscendo i tempi delle commissioni parlamentari. Quale dovrebbe essere l'obiettivo, secondo lei? Perché è palese che sarà oggetto di scontro politico sotto campagna elettorale, visto che dentro abbiamo vicende come Etruria, Marche, Chieti, Ferrara, Monte dei Paschi ancora prima, e poi Cassa di Spagna di Genova e Popolare di Vicenza e Vento Banca. È ovvio che ognuno cercherà di usarla in maniera politica. È passata l'ipotesi che uno dei sono due candidati citati, uno è l'ex viceministro Zanetti, l'altro l'ex presidente del Senato Casini. I 5 Stelle dicono che se fosse messo Casini sarebbe già un modo per affossare, per insabbiare la commissione bancaria. Ma al di là della polemica parlamentare e il fatto che il PD mi dica attenzione, questa commissione non può diventare un fuoco ad alzo zero sulla Banca d'Italia, questo lo dice appunto Della Ringa del PD, Brunetta di Forza Italia, bisogna fare luce anche sul 2011, quindi spread e quant'altro. Allora, che cosa, quale dovrebbe essere l'obiettivo, secondo lei, professor Zingales, di una commissione bicamerale sui crack bancari, che non può certo sostituirsi alla magistratura? Secondo me l'obiettivo è molto semplice: capire cosa è andato storto, al di là delle responsabilità penali che spetterà la magistratura stabilire. Ci sono le responsabilità economiche, ci sono le istituzioni che non hanno funzionato, ci sono le regole che non hanno funzionato. Quindi per evitare che un crack bancario di questo tipo possa capitare in futuro, dobbiamo capire quali sono, al di là della crisi economica, cioè ricordiamoci che le banche falliscono sempre in crisi economiche, perché per quanto uno le gestisca male, è difficile far fallire una banca quando l'economia va bene. Quindi c'è stata sicuramente una dose importante di ciclo economico, però al di là di questa dose di ciclo economico, che cosa non ha funzionato e perché alla fine così tanta gente ci ha rimesso così tanti soldi? Allora, al di là di chi sarà, chiaramente Casini era l'ex presidente della Camera, non del Senato, di chi sarà il presidente, il timore che io vedo però, Zingales, è che venga usata come uno strumento, come un'arma contro, diciamo, l'avversario politico, mentre, se ho ben capito, l'obiettivo è dire: scusate, com'è possibile che non ci siamo accorti che queste banche, da quelle più piccole locali come Etruria e Marche a quelle grandi nazionali come Monte dei Paschi, pur con tutte le differenze di ogni caso, a quelle medio-grandi ma con un effetto devastante sul territorio come Popolare di Vicenza e Veneto Banca, stavano facendo giochetti strani per mantenere alto il valore del titolo, i prestiti baciati e quant'altro. Secondo lei l'obiettivo deve essere o no andare a analizzare anche l'attività della vigilanza, quindi in primis Consob e Banca d'Italia? Beh, è certamente parte del problema, cioè noi non abbiamo visto complessivamente delle crisi molto importanti. Perché queste crisi non sono state viste e in qualche modo minimizzate? Cioè, dato il fatto, come ripeto, che ci sia stata una crisi economica pesante, e questa crisi economica normalmente porta delle perdite pesanti, però queste perdite generalmente sono abbastanza prevedibili perché vengono con qualche anno di ritardo rispetto alla crisi economica, quindi non c'è stata secondo me una sorpresa in questo senso. C'è stata una sorpresa nei crolli dei corsi azionari di alcune banche e nelle perdite di alcune banche. Quindi qualcuno non ha fatto il suo dovere e questo secondo me va stabilito. Ecco, perché allora lei riteneva, come ha scritto anche su Sole 24 Ore, che questa commissione non sa da fare? E qui uno potrebbe leggere anche implicitamente una critica ai tempi di vita che avrà questa commissione, perché poi come decade il Parlamento decade anche la commissione. No, no, il mio non era un che non si doveva fare, è che alcuni ritenevano che non si dovesse fare. Il fatto che venga avviata a due mesi dalla scadenza finale del Parlamento significa che non c'è una volontà politica di fare un'analisi seria e si vuole solo appunto fare campagna elettorale. Secondo me questa commissione doveva partire molto prima e io avrei visto bene una nomina di esperti internazionali al di fuori del Parlamento che facessero questa indagine e riportassero al Parlamento. Io dubito che 40 persone con pochissima conoscenza del settore bancario in due mesi possano ad arrivare alcunché. Questo sono d'accordo con lei, nel senso che almeno per farti una cultura, solo noi per capire che cavolo stesse succedendo, perché ogni caso poi è diverso, Monte dei Paschi, c'erano operazioni rischiosissime con l'accusa anche del 5% di tangente dietro, ma operazioni rischiosissime per proteggere le perdite che arrivavano dall'acquisto di Anton Veneta e del prezzo assurdo con cui fu pagata a Santander. Nel caso del Veneto Banca e di Popolare di Vicenza assistiamo invece al classico aeroplanino in cui, per oscurare alcune prestiti, tu aumenti e pompi, presti soldi perché si compri il titolo e via così finché tutto non crolla, la dico male, ma insomma sono due casi molto diversi. Senta Zingales, però da questo punto di vista lei dice non c'è forse nemmeno la competenza, ma perché la politica, ecco, dovrebbe essere così restia? Faccio un ragionamento un po' cinico, visto che è sotto accusa la casta politica e presunti o veri privilegi, quant'altro, inadeguatezza, insomma hai l'occasione per dimostrare anche politicamente che il mondo di alcuni banchieri più vicini al PD, come nel caso del Monte dei Paschi, più vicini magari a Lega, Centrodestra, Forza Italia, come nel caso di Zonine, Consul, comunque in regioni rosse in un caso e bianche in un altro, insomma, che non è che la polizia sia solo la politica o alcuni politici a puzzare, che ci sono anche dei gran malfattori nel mondo bancario. Perché non usare questa occasione? Beh, innanzitutto perché, come dice lei, è trasversale. Questo non è un problema del PD, di Forza Italia o della Lega, è un problema di tutti insieme. Non a caso quello che sbraita più forte è il Movimento 5 Stelle, perché essendo un nuovo arrivato non ha ancora le sue diramazioni nel sistema bancario. È come la Lega prima pre-92 che aveva una verginità che poi ha perso molto rapidamente. Quindi sicuramente non c'è questo interesse. Secondo, perché in realtà la mia impressione è che il problema sia molto più profondo della casta politica, cioè soprattutto quando parliamo di realtà locali come le banche popolari, come la Banca Popolare di Vicenza, in qualche misura Carige, eccetera, parliamo di un'intera classe dirigente locale che è in qualche modo coinvolta, cioè chi erano i dirigenti a tutti i livelli, i sindaci, chi erano i consiglieri di amministrazione, i sindaci della Banca Popolare di Vicenza, chi era il procuratore capo a Vicenza e poi a Treviso, magari anche a Siena, perché insomma di Foiadelli non scrivo io, ma scrive una sua ex sostituta, ho letto anche il libro che dice di essere stata allontanata, insomma. Chi è che non ha visto vigilanza, procura, guardia di finanza? Abbiamo raccontato intrecci molto molto sospetti, per esempio a Vicenza e a Montebelluna. Quindi lei dice che è tutto un sistema, non è solo la parte politica che non ha voglia che si scavi? Assolutamente, c'è tutta l'elite locale che in qualche modo per reati di commissione o d'omissione in qualche modo è coinvolta. Però questo poi non rischia di dare all'opinione pubblica e ai cittadini un'idea che appunto di tanto comunque pagano loro e alcuni restano non impuniti perché la magistratura continua a indagare, arriverà a sentenza, ma che non ci sia la volontà politica? E c'è quindi di avvantaggiare... Innanzitutto vediamo che cosa andrà avanti la magistratura, perché molto spesso la magistratura si limita a dei reati molto formali come ostacolo alla vigilanza, false che poi viene patteggiato, alla fine vanno a casa tutti felici e contenti. Cioè, per fortuna abbiamo visto il primo processo che è stato fatto, quello a carico di Berneschi, di Carige, ha portato in evidenza una vera associazione a delinquere in cui venivano gonfiati i prezzi degli immobili e venduti a prezzi più elevati a una società del gruppo a vantaggio degli amministratori della società. Quindi lì è una cosa molto molto pesante. Io spero che questo processo arrivi al terzo grado in giudicato prima che vada in prescrizione, però in Italia non si sta mai. Chiarissimo, grazie anche al professor Luigi Zingales in collegamento con noi da Chicago. Chiudiamola qui, forse che è meglio. Allora, qualcuno mi dice: guardi che non esiste vergate sul membro. Sì, non esiste neanche monate sul serio. Era una battuta a chi vuole sapere la chiusura di borsa, lo diciamo prima, comunque meno 0,20% oggi è seduta debole a Milano, come Parigi e come Francoforte. I titoli li abbiamo già ricordati, comunque bene Eni più 1,20 come Leonardo e Moncler e Azimut. Male un po' il lusso oggi, soprattutto Salvatore Ferragamo che perde il 4%, Yux Saint-Apporté meno 2,5% come Biper, A2A meno 2%. Mi ricordate che non ho dato i migliori e peggiori, e ve li do subito perché sono in chiusura: Innovatech più 23,60, Visibilia più 22, Mertec Limon meno 8,20, Alfio Bardolla meno 5,10%. Grazie a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Ci risentiamo lunedì da Sebastiano Berisoni, le auguro di una buona serata e di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Radio 24, libera la voglia di fare.